America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da Washington, Mario Platero. Given its continued provocations in Ukraine, today I have approved a new set of sanctions. Il presidente Barack Obama, lo avete sentito, ieri sera ha parlato dalla Casa Bianca, ha detto di aver approvato nuove sanzioni contro la Russia. Mi sono coordinato con l'Europa, ha detto Obama. Mosca la deve finire di inviare armi in Ucraina e deve rispettare il cessate il fuoco. Sanzioni pesanti colpiscono banche, aziende del settore energetico, della difesa. Ci sono limitazioni finanziarie, il divieto di ingresso negli Stati Uniti a una decina di persone, divieto a società prese di mira di accedere al mercato del debito americano. Tra i gruppi colpiti, Rosneft, il produttore di greggio controllato dallo Stato, Gazprom Bank, il braccio finanziario del colosso del gas Gazprom, Novatek, un altro gruppo produttore di gas naturale, e Vnescom Bank, la banca statale per lo sviluppo economico. Obama ha parlato anche di altri grandi temi di politica internazionale, dall'accordo sul nucleare con l'Iran, che va avanti ma con qualche difficoltà, la crisi tra Israele e Palestina, dell'Afghanistan, della Siria, dell'Iraq, insomma un mondo in disordine. Non so se avete visto quella foto dei BRICS l'altro giorno, incontro in Brasile, ospiti di Dilma Rousseff, il presidente brasiliano, Vladimir Putin, il leader indiano, sudafricano, cinese, hanno deciso di costituire una banca a Shanghai, cosa che in sé per sé va benissimo, ma preoccupa, devo dire, questa foto, perché è questa foto che diventa un po' il simbolo di una sfida all'America, che però poi va avanti per la sua strada. America 24. 21st Century Fox owner Rupert Murdoch is reportedly attempting to buy a competing media giant Time Warner. La 20th Century Fox di Rupert Murdoch vuole comprare Time Warner. Abbiamo saputo ieri che ha fatto un'offerta da 80 miliardi di dollari per comprarlo, offerta che è stata rifiutata ma che risale a giugno. Non se ne sapeva nulla e ieri il titolo di Time Warner è balzato del 15%, e l'unica cosa che sappiamo è che la Fox andrà avanti. Quello che voglio dire è che in questa operazione c'è un'operazione di mercato trasparente, non ci sono operazioni pilotate dall'alto, non ci sono oligarchi che dipendono da un leader politico. Ma sono venuto nella capitale americana in realtà per un'altra ragione, per parlare di Expo 2015 di Milano e di un incontro con John Kerry, presissimo dagli affari internazionali, ma che ha trovato il tempo per incontrarci ieri al Dipartimento di Stato. Sentiamo. And as a global leader in advancing food security, the United States feels we have to seize this opportunity to be involved in the 2015 World Expo. Ecco, avete sentito quello che ha detto Kerry, perché di fatto ha dato una nuova dimensione per Expo 2015, perché l'evento diventa l'occasione non solo per agroalimentare, ma per indicare attraverso l'agroalimentare percorsi destinati a sopire rivolte in paesi instabili, calmare aggressivi movimenti migratori, ridurre tensioni terroristiche, rafforzare la sicurezza nazionale, americana ed europea. E Kerry dice testualmente: per noi l'Expo 2015 vuol dire prima di tutto sicurezza alimentare, diventa parte del mosaico che ci consentirà di migliorare la nostra sicurezza nazionale sia in America che in Europa. 9 billion people are expected to populate this planet in the not so distant future. Qui vi ho proposto la motivazione di Kerry. Dice di nuovo testualmente: entro il 2050 ci saranno 9 miliardi di persone su questo pianeta. Ci saranno cambiamenti climatici, gli scienziati dicono che avremo 2 miliardi di persone in più da sfamare rispetto ad oggi, dovremo aumentare del 60% la produzione di cibo, dobbiamo farlo in modo sostenibile, non potremo farlo senza innovazione, e l'innovazione, dice Kerry, fa parte del nostro DNA e una definizione dell'America. All'evento c'erano anche l'ambasciatore d'Italia a Washington, Claudio Bisognero, l'ex ambasciatore americano in Italia, David Thorne. Entrambi hanno aiutato, hanno cercato di dare una mano per raccogliere la partecipazione di aziende, perché per legge devono essere soltanto aziende private che sostengono il padiglione americano, non ci può essere un ruolo, un finanziamento da parte dello Stato. E dunque a un certo momento sembrava che ci fossero difficoltà che poi sono state superate. Sentiamo l'ambasciatore Bisognero. Gli Stati Uniti intendono partecipare perché riconoscono a Expo 2015 una valenza di grandissima importanza, sia per le tematiche dell'alimentazione, dell'agricoltura, che sono ovviamente di rilevanza mondiale, ma anche come strumento per l'economia, per l'impresa americana, di essere maggiormente presente in Europa su questi grandi temi e, come ha detto pochi istanti fa il segretario Kerry, anche per l'impresa europea, per l'impresa italiana, di poter sviluppare i rapporti con gli Stati Uniti in questo importantissimo settore. Ecco, questo sforzo per cercare di convogliare la partecipazione con l'aiuto, devo dire, dell'American Chamber of Commerce di Milano e dell'ambasciatore Phillips a Roma si è tradotto in una copertura che per la fine di luglio sarà del 40% del fabbisogno totale di $55 milioni. E lo sponsor americano più importante, General Electric, pensate, ha dato un contributo di $5 milioni, Uvet American Express $2.5 milioni, poi con contributi tra $1 milione, $1.5 milioni, 3M, DuPont, McKinsey, Illy Caffè, Coca-Cola, che ha annunciato proprio in questi giorni la sua partecipazione, che tra l'altro aveva un suo stand separato che da solo è costato $7 milioni. E devo dire, mi sorprende che non ci siano colossi della nuova economia come Facebook, Google, Yahoo, Microsoft. Si sono tenuti fuori per ora questo progetto, che è un progetto esemplare anche per un impegno di responsabilità sociale aziendale, proprio per portare avanti questo messaggio fondamentale per la sicurezza agroalimentare, per la sostenibilità della produzione alimentare e dunque per la sicurezza nazionale, come ci diceva Kerry. E siamo tanto contento di possiamo lavorare, fare questi lavori in Italia, perché i legami tra i nostri paesi sono sempre strettissimi. Ecco, avete sentito David Thorne, che torna in argomento sicurezza alimentare, e devo dire questo padiglione americano che ho visto il progetto, una costruzione avveniristica che ospiterà quattro tematiche complementari a quella centrale della sicurezza alimentare, della responsabilità, e cioè un approccio globale alla sostenibilità agroalimentare. Il problema è comune, e c'è un ruolo chiave dell'innovazione in tutte le sue manifestazioni, questo interessa in modo particolare l'America, e cioè anche in quella di prodotti modificati geneticamente, che sono visti con sospetto in Europa. Si parla di nutriziosità, alimentazione sana, piena di sostanza, di vitamine, di proteine. Si parla di deliziosità, che è rappresentativa della diversità creativa del cibo americano. Ecco, e questo padiglione, questa è una curiosità interessante, avrà una parete destinata a culture rappresentative dei 50 stati americani, un'intera parete con piante che crescono da questa parete. Ci sarà un meccanismo per fare ogni giorno una piccola raccolta. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Seguiteci su america24.com, su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, quest'anno si celebra il 50° anniversario della New York World's Fair del 64, quello che è l'equivalente di quello che succederà a Milano l'anno prossimo, e capitò a New York molti anni fa. Fu l'ultima grande fiera mondiale che si è tenuta a New York e che ebbe una partecipazione di oltre 50 milioni di persone. Dunque per noi a Milano un record da superare. Qual è la curiosità? Che per l'occasione fu scritta una canzone. Ve la propongo. Fair is fair di Pam Davenport. Fair enough to fill your eyes with beauty. Fair enough to have a fall. Fare well to every thought of duty. Come to the fair is fair of all. Pick up your left foot, pick up your right. Just be sure that you are there. Da Washington è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24.